Letture di Radio 24. Si intitola La canzone in cui viviamo, il saggio scritto da Vincenzo Incenso, che prende in esame 100 canzoni tra le più significative della musica italiana. Musicista e compositore a sua volta, ha scritto tra gli altri per Sergio Endrigo, Renato Zero, Ornella Vanoni e Lucio Dalla, Incenso ripercorre un secolo di musica italiana, dalle canzoni di guerra ai brani melodici, dalla ballata popolare alla canzone politica. La canzone è figlia del proprio tempo, ma a volte è anche genitrice del nostro domani. E non è solo questione di impegno o disimpegno, di rock o di pop, di processi intellettuali articolati o di intuizioni naif. Il suo potere magico e abiettamente poetico, come lo definiva Pasolini, di incidere nel tessuto sociale, prescinde da questo o quell'orientamento. La direzione non è in una canzone, canta Ligabue, ma la canzone è certamente presente in molte direzioni. Sicuramente ai cantautori spetta, in virtù di una maggiore libertà di movimento e di un relativo disinteresse delle tendenze del momento, il merito di essere stati lettori più attenti di quanto accadeva intorno o quanto stava per accadere. I cantautori c'erano anche prima dei cantautori. Prima di questa definizione, coniata dal discografico Vincenzo Micocci, ne avevano addosso un'altra, risalente ai tempi di Michele Straniero, esaltato da Umberto Eco come padre della categoria, quella di cantacronache. Il gruppo dei cantacronache, Fausto Amodei, Sergio Liberovici, Margot, a cui si aggiungono scrittori come Italo Calvino e Franco Fortini, esordisce nel 1958 in occasione di un raduno organizzato dalla CGIL. Da subito è chiaro il loro programma. Michele Straniero dice: «Siamo stanchi della pessima qualità delle canzoni presentate al festival, della pochezza e della ripetitività dei loro testi». E infatti non tardano ad arrivare brani di ben altro carattere, come «Per i morti di Reggio Emilia», di Amodei, o «Dove vola l'avvoltoio», di Italo Calvino e Liberovici, o ancora «Gorizia», dello stesso Straniero. Spostandosi dal territorio della poesia a quello della prosa, i cantautori hanno inciso e si sono immersi profondamente nel linguaggio corrente, magari sgrammaticando, facendo uso del gergo, della dislocazione, dell'amemi, alternando nella stessa frase congiuntivo e indicativo, rendendo cliché l'errore grammaticale, ma rimanendo incollati alla gente. Però l'Italia è stata raccontata anche da ritmi e colori più leggeri, da motivetti futili e da frasi apparentemente inutili. Da sempre la canzone italiana si è divisa tra racconto del sociale e gara a premi, tra rivoluzione e lustrini. Da una parte c'è la capacità di fotografare il paese e la sua storia, dall'altra la kermesse canora più estetica che etica. Alcune fonti segnalano che già nel 1839, in una grotta di Pozzuoli, un pubblico giudicava e premiava canzoni improvvisate. Non dovrà sorprendere il fatto di trovare in questo scritto Abbronzatissima accanto a Dio è morto, o Luigi Tenco in compagnia di Orietta Berti, la quale tanto fu criticata dal compianto cantautore genovese. I brani cosiddetti commerciali sono stati più volte colonna sonora di profondi cambiamenti, sentinelle di passaggi e di snodi sociali importanti, fotografie di un paese che è passato dal boom economico al 68, dalle barricate alle stragi, dall'ottimismo della volontà alla crisi economica più profonda, piangendo, disperandosi, ma anche ballando, innamorandosi, ridendo o sorridendo. Sono dell'avviso che Domenico Modugno abbia inciso nel paese più di alcuni passaggi di mano di governi, che abbia fatto più Fabrizio De André per sensibilizzare l'attenzione sugli zingari che molti sindaci di città italiane, e che ballare un brano di Edoardo Vianello possa essere servito più di una seduta terapeutica di gruppo. La canzone ha un ruolo fondamentale nel bagaglio psicologico di ognuno di noi. I nostri rituali seduttivi sono spesso regolati dalle canzoni. Le canzoni possono evocare percezioni subliminari, accendere una reazione emotiva in assenza della vera causa che l'ha provocata. Sono fondamentali in quel bisogno di appartenenza che è strategico nella formazione sentimentale di un adolescente. La canzone va amata, rispettata, alimentata, difesa, perché può ancora essere, come lo è stata, una fonte di identità. Autore deriva da auctor, in latino colui che aumenta. L'autore, il compositore, il poeta possono e devono continuare ad avere questo compito: aumentare il mondo. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Vincenzo Incenzo, La canzone in cui viviamo, 101 viaggi nella scrittura cantata italiana. No Reply Editore, 304 pagine, 12 euro. Nel corso della vita possono capitare momenti in cui ci si sente soli e disorientati. Nel suo libro La mappa dell'anima, Colette Bannon-Reed, consulente motivazionale e sensitiva, offre ai lettori un percorso per raggiungere una nuova consapevolezza e trovare il significato dell'esistenza. Tutti aspirano a liberarsi della sofferenza, della solitudine e della tristezza e vogliono poter pensare che il dolore sofferto abbia almeno uno scopo. In quest'epoca della storia umana avvengono tali e tanti cambiamenti che il pessimismo riguardo al futuro non fa che aumentare. Quando vediamo che le condizioni esterne mutano a grande velocità e le strutture garanti della sicurezza crollano, è facile dimenticare che non siamo gli unici a pensare che ci stia per mancare la terra sotto i piedi. Il senso di appartenenza, l'amore, la comunità offrono tutti un'impressione di sicurezza quando siamo sferzati da venti gelidi e ci sentiamo incerti e vulnerabili. Eppure la natura umana ci spinge a cercare qualcosa di meglio anche quando la vita ci sorride. Come la natura, anche noi siamo portati a evolvere. Sembra che nel nostro DNA sia racchiusa l'aspirazione a creare qualcosa di nuovo, non solo nelle nostre vite individuali, ma nel mondo esterno. La nostra ricerca di benessere personale è più profonda quando capiamo che curare le nostre ferite contribuisce alla salute e alla guarigione di tutti. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'umanità. Voi siete importanti, lo siamo tutti. Quando lo capite e accettate che ciascuno di noi sia essenziale per l'intero genere umano, riconoscete che il mondo è un luogo straordinario e incantato e che avete sempre la capacità di co-creare qualcosa di migliore. Non molto tempo fa ho deciso di svolgere un'indagine sulle persone che partecipavano ai miei seminari per cercare di capirne gli obiettivi. Ho chiesto loro: se potessi avere tutto, cosa vorresti? Alcuni cercavano un rapporto sentimentale stabile e la possibilità di avere figli, altri desideravano guarire, altri ancora dicevano di voler fare qualcosa di memorabile. Tante risposte diverse, eppure tutte riconducibili a 5 desideri principali: amore, sicurezza, scopo, creatività e gioia. Questi desideri sono legati tra loro. C'è un senso di sicurezza che ci pervade quando ci apriamo a nuove idee senza temere il cambiamento, quando affrontiamo la vita con uno spirito innovatore e ci convinciamo che tale apertura ci migliorerà la vita. Siamo felici e avvertiamo di avere uno scopo quando pensiamo di esercitare un'influenza sulla vita degli altri. Grazie all'amore, proviamo un senso di appartenenza e di sicurezza che ci permette di correre rischi e di vivere in modo creativo. Perché tanta gente è scontenta, delusa dalla propria vita e dai progressi compiuti lungo il cammino? Perché considera il mondo sterile e desolato, un campo di battaglia invece di una terra popolata da alleati magici e buoni e ricca di opportunità di avventura? Credo sia perché ci concentriamo troppo sui problemi e sul tentativo di risolvere i nostri e quelli del mondo circostante e non vediamo l'incredibile bellezza dell'esperienza umana. Quando permettiamo a noi stessi di spingere lo sguardo oltre i simboli di gioia e sicurezza e di vedere la loro autentica manifestazione, le nostre vite si riempiono di magia e di possibilità. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Colette Bannon-Reed, La mappa dell'anima, Tea Editore, 280 pagine, 13 euro.